24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Se mi avessero detto nella mia vita che io facevo una cosa con lui, l'avrei denunciato per diffamazione, chiunque. Invece è il mondo alla rovescia. Senti, è anni che dico queste cose. Tu vuoi far progredire, adesso rilassati. È iniziata così col massaggino, le battute, l'evento mediatico dell'anno, del secolo, del millennio. Beppe Grillo che si è seduto negli studi di Porta a Porta, era dal 1983 che non fronteggiava o non si vedeva con Bruno Vespa, si danno ancora del tu. E niente, insomma, è stato l'evento della serata di ieri, si sono fatti pure un selfie, si sono concessi anche delle battute. Beppe Grillo si è presentato con un plastico del castello di Lerici con delle segrete delle carceri, insomma, in cui aveva messo dentro dei politici, ma non gliel'hanno fatto entrare, non gliel'hanno fatto portare, e lui ha detto: mannaggia, non mi fanno portare le cose di plastica e fanno entrare Berlusconi. Vabbè, insomma, e poi dopo hanno parlato un po' di tutto di più. L'avete visto? L'avete visto Beppe Grillo? Da Bruno Vespa. Cari italiani, sono le 6:35 minuti, questa è 24 mattino. Voglio salutare Miriam Lucchetti in redazione, voglio salutare il nostro alpino Peter Bescapè in regia, che conta i giorni che lo separano dalla dunata dell'Aquila l'anno prossimo degli alpini, sono 355 più o meno i giorni. E allora apriamo subito il nostro Parlamento, dai, forza, che ieri tutti i leader erano in TV, chi di qua, chi di là. Allora, intanto voglio salutare subito Federico Novella, grandissimo, eccolo. Eccoci, qua. Buongiorno, qua, quasi in onda con Mattino 5 dalle 9. Dalle 9, oggi peraltro è una giornata particolare, perché questo pomeriggio arriverà, che succede? A Bologna Matteo Renzi, ormai. L'ho letto. L'hai letto, vero? Matteo Renzi va da Barbara D'Urso oggi. Bravo. Da Barbara D'Urso, ti ha fregato Matteo Renzi. Mannaggia. Vabbè, però insomma, voglio dire, l'appuntamento è nazional popolare. Certo. Di fare questa comparsata. E sai com'è, insomma, l'ultima settimana di campagna elettorale, ovunque ti giri spunta fuori un leader di partito da intervistare. Come dico io, attento a non aprire la lavatrice questa mattina, che magari ti spunta, che ne so, spunta fuori Salvini. Oppure Salvini. L'ho detto apposta Salvini dalla lavatrice, perché, caro Federico, devo salutare la direttora più amata dagli ascoltatori di Radio 24, vale a dire Aurora Lussana, direttore della Padania, che devo dire. Buongiorno Aurora. Buongiorno Milan, un caro saluto agli amici di Radio 24, la più bella radio. Dopo, la radio più amata dopo Radio Padania Libera. Ecco, appunto, Radio Padania. Capito, Federico Novella, anche tu ce l'hai. Sì, tu sei un po' più leghista di Radio Padania. Però, un pochino sì, però loro sono meglio, Io un po' più leghista, ma loro più bravi, ecco, diciamo, la mettiamo così. Allora, chi è l'unico pirla che può non aver visto ieri Beppe Grillo, Bruno Vespa? Chi lavorava? Tutta Italia l'ha vista, l'unico pirla sono io, più o meno. Lavoravi. E infatti lavoravo. E tu, Aurora Lussana, l'hai visto? O qualcuno nella vita dovrà anche lavorare. Sì, infatti. Sì, ho fatto un comitato d'ascolto. Ma cosa ti devo dire? È stato molto addomesticato da Vespa, il buon Grillo. Dici? Sembrava, sai, quelli che vanno in chiesa la domenica un po' spaventati. Sì. No, secondo me lui ha bisogno di mettere in scena la parola come showman. Ieri sera lì da Vespa, essendo la terza camera, camera, cioè, secondo me era un luogo troppo istituzionale per lui, non ha sortito un grande effetto. Non poteva fare un comizio con le sue buttate. Sai, l'anno scorso quando il Berlusca è andato da Santoro ha sortito un effetto straordinario sugli indecisi, secondo me, la polverattina, la sé. E lui puntava un effetto così, ma era un po' bolso ieri sera. Un po' bolso. Tu Federico l'hai visto? No, perché se arrivava col plastico, dominava lui la scena. Ma non gli ha fatto entrare il plastico. Era il plastico dell'incidente che ha avuto lui? Passiamo alle polemiche. Allora, diamo subito. Passiamo al veleno. Tu, Federico, l'hai visto almeno? Ma io l'ho visto all'inizio con un occhio un po' mezzo chiuso. Certo, perché ti svegli a che ora? Diciamo la verità. Mi sveglio dopo di te, però alle 6 siamo su, anche se meno un quarto. Insomma. Ecco, appunto, non siamo come Milan, che ha una tempra inimitabile. Guarda, mi viene da dire un programma di Beppe Grillo, ma però in effetti era un po' ingessato, Grillo era un po', subiva, diciamo così, il fascino dell'ambiente dove si trovava, insomma, no? Quindi si sentiva un po' fuori posto, un po' fuori posto. Vabbè, insomma. Ma che voto date, dai Aurora, che voto dai a Grillo ieri? La performance di ieri sera a Vespa? No, non arriva alla sufficienza. Poi ha bofonchiato sull'immigrazione, alla fine gli ha detto giustamente Vespa, che comunque vabbè, un genio del giornalismo, vabbè, ma sulle stesse proposte d'Alfano, gli ha detto sì, cioè quando vieni paragonato ad Alfano e non ti offendi, è la fine, cioè, si sa che scusa, è un'ingiuria, cioè come è un'ingiuria? Siamo in par condicio, Federico Novella, subito una cosa pro Alfano, dai, subito, no, subito. Alfano è una garanzia, è un grande. degli sbarchi, dei clandestini. Devi subito rimediare, Federico. Sta risolvendo il problema degli sbarchi. Sta risolvendo alla grande il problema degli sbarchi. Nonostante il populismo di certa opposizione. Comunque sentiamo Grillo, la battuta sulla plastica l'ha fatta, sulla plastica e sul plastico. Beppe Grillo. Ma non fanno entrare le cose di plastica in studio e poi fate entrare Berlusconi. Io non lo so. vabbè, in questo forse. Però era fuori onda, Federico, ancora no. Sì, ma è così. Io fra il 6 e il 7. Sì, però giocava in trasferta e quindi insomma un occhio di riguardo bisogna darglielo. Grillo, secondo me, funziona, dà il massimo sul palco, senza l'intervistatore davanti, a prescindere da chi sei intervistatore. Se gli metti l'intervistatore è come se gli mettessi il guinzaglio. Io invece gli do SV, senza voto. Non l'ho visto. che devo fare? Non l'ho visto, quindi non è che posso infatti fidarmi di voi, eccetera, e sentire che cosa dicono. Vabbè, ma ieri è stata una grande serata, c'è Renzi di qui, Berlusconi di là, Grillo di su. Salvini a Rete 4. Non ho capito. Salvini a Rete 4. Cioè, tu dici c'era Berlusconi a Quinta Colonna. No, c'era Salvini. C'era anche Salvini a Quinta Colonna. Vabbè, però se io ti faccio sentire Berlusconi, è Berlusconi che ce l'ha con Grillo, meglio col cane di Grillo. Lui in questa violenza è coerente, sa come ha chiamato il cane della sua famiglia? No, questo non lo so. Te lo dico io. Delirio. Delirio. Non so. Delirio. Ma chi chiama il cane delirio non può che essere un... Ma poi è vero, non lo so. Un aspirante dittatore. No, pare che sia vero. Ma era una battuta, non lo so. Ah sì, è vero. So, Aurora, cioè devo dire che oggi Aurora Lussana, com'è che titolate la Padania? La Cagnara. Cosa fate? Mettete la foto. Cosa so Ghigni? Sì, ma perché Salvini non fa anche lui un po' di Cagnara che urla? Sì, no, certo, ieri sotto la casa della Fornero. Allora. Certo, ma giusto, ma deve essere funzionale la protesta e deve essere funzionale al voto del 25 maggio. Il 25 maggio ci sono le elezioni europee. Non è che è una partita di politica interna come sta facendo Grillo, Renzi e in parte Berlusconi. e in parte anche Dudu, che ormai ha la sua dignità politica. Io credo che quando uno parla di Hitler, di Lupara Bianca, di complotti, di pensiere, di dissezione, non vuole parlare di quello che sta succedendo in Europa, che c'è la locomotiva tedesca che sta schiantando tutti, i dati di oggi lo certificano, quelli del Corriere di oggi, l'avete letto? Come no, impressionante. In Germania sono aumentati 1 milione di posti di lavoro, da noi ne abbiamo persi 500.000. È impressionante, quindi, è impressionante. Qui, diciamo, c'è la gabbia dell'euro, ritorniamo alla sovranità monetaria, l'Europa c'ha l'eurite. L'eurite, tu Federico c'hai l'eurite, l'eurite, malattia gravissima secondo me. Guarda, c'ho tante cose stamattina, l'eurite mi manca. Malanno. Rispondiamo al discorso sulla dignità politica di Dudu, incuriosiva. Ormai è un protagonista della politica. Tra l'altro ieri Beppe Grillo, sempre nelle sue battute eccetera così, ha detto: noi non vogliamo mica vivisezionare Dudu, ma al limite il suo proprietario, che è diverso. Comunque, allora, la questione a me che interessa è, in tutta questa bagarre dell'ultima settimana, ne vedremo delle belle, come detto oggi Matteo Renzi da Barbara D'Urso, e pare che dica i suoi: mettetemi il maggior numero di appuntamenti, devo girare l'Italia, devo fare vedere che ci sono, che non abbiamo paura, non indietreggiamo. Però è o no un duello, caro Federico, Grillo-Renzi, cioè questa campagna elettorale? I due grandi protagonisti mi sembra che siano loro, cioè si può ridurre a questo? Ma secondo me sì, alla fine sì, nel senso, non è detto che poi quando vai a vedere le urne loro si spartiscono la maggioranza, ma mediaticamente mi sembra che sia lo scontro tra la politica, intesa come il governo, e l'antipolitica. Gli altri cercano di trovare una ragion d'essere nel mezzo, però non sempre ci riescono, perché questi due sono fortissimi mediaticamente. E poi per questa campagna elettorale adesso, cioè, va bene tutto. In questa settimana non ne sentiremo di qualsiasi. Sembra che si siano trasformati tutti in Salvini. Sì. Improvvisamente, in che senso? Allora, cioè, chi va in bicicletta, chi fa palestra, chi dà del dittatore a quell'altro, insomma, non so come andrà a finire, però dobbiamo tapparci le orecchie, secondo me. No, sì, un pochino sì. La cosa che vorrei capire, se può andare a finire così, adesso entriamo un attimo nei riflessi che potrebbe avere la campagna elettorale, è: il Movimento 5 Stelle dice vinciamo noi, e questo lo vedremo, insomma mancano 4 giorni, e poi bisogna cambiare il governo. Ecco, questo legame, tu Aurora Lussana, lo capisci, l'hai capito politicamente parlando? Sì, è il discorso che facevo prima, cioè io rivendico alla Lega una grande capacità, un grande merito storico-politico di aver alzato il dibattito sull'euro e sulla cessione di sovranità politica, monetaria e istituzionale a Bruxelles. Noi siamo gli unici che parliamo di Euro-Europa, di un'altra Europa possibile. Noi abbiamo fatto un'alleanza europea che va dalla Le Pen in Francia a quelli del Frans Beloc, ora Frans Velang in Nord Europa. Noi abbiamo un progetto europeo, loro invece giocano una partita a due: Renzi contro Grillo, Grillo contro Renzi. Se Grillo piglia anche un solo voto in più di Renzi, o comunque rimane incollato, questi cingono d'assedio il Quirinale e chiederanno a Napolitano di togliere le camere, cioè, alla barde, fionde, catapulte, no, chiaramente, ma politicamente parlando, allora però. Anche legittimamente i grillini faranno così, perché sarebbe il fallimento politico di Renzi. La prima volta che va al voto Renzi, visto che è arrivato dove è arrivato. Cioè, secondo te Federico andrà così, cioè cercare di ottenere il maggior numero di voti per poi fare pressioni sul Quirinale a dire adesso? Sai, del governo D'Alema cadde perché perse le elezioni europee. Lì perse le regionali. Però queste europee hanno un valore politico. Se davvero Grillo prendesse più voti di Renzi, il governo secondo me non resterebbe in piedi. E non resterebbe in piedi, magari resterebbe in piedi, ma magari qualche mese, magari sì, magari. Ma resterebbe in piedi qualche mese, anche se il centrodestra fallisse, ti dirò di più, anche se il Renzi prendesse tanti voti, ma non avesse la stampella, diciamo così, del centrodestra. Sì, certo. Per fare le riforme, quanto può andare avanti? No, sarebbe in difficoltà. Intanto noto l'ascoltatore che tutti i giorni, in questo caso è Giampiero, mi scrive: Milan, servo del PD. Oh, così, insomma. E quindi, per par condicio, Federico Novella? Io sono servo di Grillo. Servo di Grillo. E Aurora Lussana, si sa, è serva di Salvini. E vabbè, questo era abbastanza scontato. Il traffico, e rientriamo. 24 mattino. Alessandro, se convinci la Lussana a tenermi lì a casa sua, digli che sono disposto a fare tutte le mattine alle 5:30 la cassola, anche il giorno di Ferragosto, dai, intercedi. Milan, ma insomma, io dovrei andare a votare le europee e votare per persone che non si sa chi sono, da dove vengono, oppure per gente come Mastella, e fargli guadagnare 15-20 mila euro al mese più vitalizio. Ma non se ne parla proprio. E quelli anti-Europa, tipo Matteo Salvini allora, che sono stati e sono ancora attualmente in Europa, che ci tornino indietro i soldi intanto, prima di parlare contro l'euro e contro l'Europa. Sono risentita con tutte le persone che dicono con orgoglio di non votare. Cosa fanno poi? Emigrano? Chi non vota non ha diritti sociali, compreso quello di criticare. Pilato fece lo stesso, per questo è passata la storia, come un vile. Ciao Alessandro, Renzi ha perfettamente ragione, non mandate buffoni in Europa, quindi vuol dire non andate a votare perché i nostri candidati sono tutti una manica di buffoni. Di moda ci sono dei modi di dire che i vecchi come me fanno stupire. Si dice adesso che vota di pancia chi dietro a chi più sbraita si aggancia. Domani si dirà che è come un mulo chi vota non di pancia ma di cervello. Ciao Neda, Felice Pautasso. Vabbè, grande Felice Pautasso è tornato. Hai capito, Aurora Lussana? C'è chi vi vuole dietro i soldi, c'è chi si offre per la cassola. Vabbè, insomma, c'è un po' di tutto. Però scusate, ma devo dire, ma Federico, ma era da te ieri Berlusconi che ha parlato? Ieri, ma sì, perché ero maledetto? Io non me ne ero accorto, ma io ho capito, ma fai lo gnorri. La prossima volta ti avverto. Ma fai lo gnorri, voglio dire, mando in onda Berlusconi che dice delirio da te, è venuta Miriam Lucchetti a dire ma guarda che era da Federico Novella, ma insomma anche te, ma aiutami, ma no? Ma potevi telefonarci in diretta, no? Scambiavamo chiacchiere, figurati. Saluto il presidente, gli chiedo qualcosa sul Milan, avrei un 100-150 domande sulla gestione. Sul Milan però non ha parlato. Chissà perché. Chissà perché con la campagna elettorale, cioè, Seedorf praticamente è un cadavere in piedi, ma insomma fino al 25 maggio non si può dire. Vabbè, è così. Allora, vogliamo risentire un altro Beppe Grillo, insomma, d'altronde era un po' il protagonista del giorno, I processi online. Vuol fare i processi. Qua adesso diamo subito gli indirizzi Twitter di Aurora Lussana e Federico Novella, due antigrillini che verranno massacrati al mio ordine, scatenate l'inferno, cari grillini, sulla rete contro costoro. Dobbiamo fare una specie di processo, ecco perché il castello, un processo online. Il diritto che i cittadini possano processare la classe politica è un diritto acquisito, ce lo siamo presi e lo faremo in perfetta democrazia via web. Poi ci sono le categorie, gli imprenditori, gente come De Benedetti, gente come Tronchetti che ha scolpato questo paese, no? E poi c'è la categoria, io ho messo lui perché lui rappresenta quello che è l'informazione, ma no, nel bene e nel male, e siamo al settantesimo posto. Ha messo Bruno Vespa come simbolo della categoria, ti senti rappresentata da Bruno Vespa, Aurora? Ma sì, ma io ho sempre guardato Bruno, ma a me non mi dispiace. Il Bruno, lo chiama, no, il Bruno. Ieri sera Grillo si è vespizzato, quindi la sovrastruttura, il modello vincente è quello di Vespa, perché se tu vai da lui, che è un contenitore, e prendi forma e sostanza in quel salotto sulla scorta delle esigenze di Vespa, vuol dire che nella cultura dominante il modello di Vespa ha vinto anche nel giornalismo. Vabbè, però, quindi Grillo si è un po' vespizzato ieri, anche pensavamo che invece lo aggredisse, invece è Vespa che ha contagiato Grillo. Va bene, allora l'indirizzo Twitter di Federico Novella è così come lo dico, Federico Novella, giustamente. Sono responsabile di quello che dico, ma non è che infatti te ne accorgerai oggi. Guardate, c'è la gogna dei social, godi, vero Milan? Un po' ti piace, No. Ma io dico, io ritwitto tutti coloro che mi insultano. Infatti adesso è arrivato anche adesso, è arrivato un altro grandissimo messaggio. Milan, sei un servo del potere, come Bruno Vespa. Strisci e non inciampi. Chiedo scusa a Bruno Vespa se l'hanno accumulato a me in questo insulto, ma insomma questo grande ascoltatore. Ma è il momento conclusivo, il momento del... Cioè, Federico, sai che sempre a quest'ora Aurora ci regala la ricetta del martedì, quando è martedì. Ah, certo. Certo, allora, dai, su, Aurora, oggi cosa si cucina? No, allora, nella speranza che l'Europa, così come ci sta prospettando, tolga la data di scadenza dei nostri prodotti e del nostro sistema agroalimentare, che è una cosa gravissima. Ho capito, ma non fa un comizio, devi fare una ricetta. No, è vero. Stai tagliando la cipolla adesso. No, gli agricoltori sono in rivolta, no? L'Europa vorrebbe togliere una cosa gravissima. E quindi tu che cucini? Sbrofadei in brodo. Cosa sono, Federico? Sbrofadei in brodo. Federico, aiutami. Ecco, io ho fame, quindi spiegatemi come si fa. Per par condicio di qualcos'altro. Cos'è che sono gli... Sbrofadei in brodo. ma che sgroppa? Sbrofadei in brodo. Buonissimi. Con un po' di grana padano. Ma cos'è, una pasta? Una roba? Ma no, fai un piccolo impasto, farina e uova, poi le grattugi dentro nel brodino e la sera quando torno dalla redazione, dalla Padania, c'ho... Mamma mia, No, infatti il nome era bello, ma è una tristezza assoluta, i passatelli nel brodino col grana. Vabbè, insomma. Grana padano della Padania. Perché se c'è il grana padano vuol dire che c'è la Padania, come disse il buon anno. Bravo Milan. Va bene, va bene. Grazie Aurora Lussana, Federico Novella alle 9. In onda con Mattino 5. E poi oggi c'è Renzi dalla D'Urso, quindi grande fermento a Cologno Monzese. Grazie, alla prossima. Ogni tanto una parolaccia ci vuole. Sì, bene. Il tempo è scaduto. Lo dico io questo. Dillo tu. Il tempo è scaduto. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua, sono le 7:20 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo anche i temi che affronteremo tra un'ora. Saranno ospiti ai nostri microfoni, visto che si va sempre più, pare anche dai sondaggi, è un duello Renzi-Grillo. Ne parleremo con Cécile Kyenge, ex ministro all'integrazione che ora è candidata alle europee, e con Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, che è dato in predicato da molti giornali, molti rumors, anche se lui smentisce, che potrebbe essere anche l'uomo su cui punta il Movimento 5 Stelle per formare un nuovo governo una volta finite le elezioni, dovessero andare bene ovviamente per il movimento di Beppe Grillo che ieri è andata porta a porta. E poi alle 8:45 avremo ospite collegato da Dubai l'ex deputato Amedeo Matacena, colui che è stato condannato in via definitiva per associazione esterna alla mafia, colui che secondo le accuse della direzione investigativa antimafia Reggio Calabria è stato aiutato da Claudio Scaiola per tentare di passare da Dubai a Beirut, e per questo Claudio Scaiola è stato arrestato. Allora, questi gli ospiti, leggiamo i giornali. In questo martedì 20 maggio sono due i titoli principali, notizie principali delle prime pagine e delle aperture dei quotidiani, vale a dire la vicenda della Tasi. Il Sole 24 Ore apre così: Tasi, rinvio a settembre per i comuni in ritardo. E anche il Corriere della Sera: Tasi, rinvio per le città in ritardo. Così La Stampa: Tasi nei comuni in ritardo, la prima rata slitta a settembre. Il Messaggero: caos comuni, slitta la Tasi. Per il Giornale: casa Renzi è un bordello. Libero Tasi si paga in 75.000 modi e costerà più dell'IMU. Per il secolo XIX Tasi, chi paga a settembre? Mentre l'altra grande notizia ovviamente è la campagna elettorale che è entrata ormai nel vivo negli ultimi giorni. Minacce, insulti, Grillo va in TV, duello con Renzi, questo è il titolo di Repubblica. Per il Fatto Quotidiano Grillo attacca gli 80 euro da Vespa, voto di scambio. L'Unità, il buffone della lupara bianca, così Grillo ha detto la lupara bianca per Renzi, mentre l'apertura del Manifesto è doppio incubo. A una settimana dal voto l'Eurostat fotografa il disastro dell'occupazione che diminuisce ancora gonfiando il voto populista. L'Italia è in zona retrocessione. Allora, come detto, la casa, partiamo dalle cose concrete che vi riguardano, perché sulla Tasi c'è nella patria dei campioni mondiali di slittino, vale a dire l'Italia, slitta anche la Tasi, non per tutti, tutti i dettagli sono esplicitati sul Sole 24 Ore. La prima rata il 16 giugno va pagata e andrà pagata solo se il comune ha deciso le aliquote entro il 23 maggio, dunque se entro 3 giorni i comuni hanno deciso le aliquote, e entro il 31 maggio la delibera deve essere stata pubblicata dalle finanze. Se questo verrà rispettato dal vostro comune, allora dovrete pagare regolarmente la Tasi alla prima rata il 16 giugno. Se invece i comuni che non avranno deliberato le aliquote entro venerdì 23 maggio, per esempio tutti quelli che vanno a votazione a rinnovo elettorale domenica, se non l'hanno già fatto, ovviamente non faranno in tempo a farlo. In quei casi, nei casi in cui i comuni non delibereranno entro il 23, allora l'acconto Tasi slitta a settembre, probabilmente il 16. Il ministero però non lo precisa. Infine, con la rata di dicembre, 16 dicembre, sarà effettuato in tutti i comuni il conguaglio Tasi secondo le aliquote deliberate e pubblicate sul sito delle finanze. In ogni caso, Eugenio Bruno scrive tutti i dettagli a pagina 3. Il rinvio a settembre per 7.000 comuni che non hanno ancora deliberato sulle aliquote. Per esempio, città che hanno deliberato, c'è Aosta. Aosta tra l'altro ha messo una quota molto molto bassa, l'1 per 1.000. Oppure Bergamo 3,2 per 1.000, Biella 3,3, Bologna il 3,3, Brescia 2,5 per 1.000, Carbonia, Caserta, Cremona, Ferrara, Forlì, La Spezia, Livorno, Modena, Novara, Pesaro, queste alcune, ma comunque l'elenco è tutto sul Sole 24 Ore, delle città che hanno già deliberato. In queste città dunque si pagherà normalmente il 16 giugno la prima rata. Mentre, non so, alcuni esempi, partendo da là, Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno e poi Belluno, Benevento, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Enna, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, Lecce, Lecco, Lodi, Mantova, Nuoro, Padova, Palermo, Parma, Pavia, e chi più ne ha più ne metta, Siena, Sondrio, Siracusa, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Vercelli, Verona. In questi casi Varese, Venezia non hanno ancora deliberato i comuni, se non lo fanno entro il 23 maggio, entro 3 giorni dunque, in questo caso la vostra Tasi slitta a settembre, presumibilmente al 16, ma non è detto. Tra l'altro Libero in maniera molto polemica titola così sulla casa: 75.000 tasse diverse, 75.000 tasse diverse, è un modo di dire che ci sono davvero tutti i modi per vivere questa tassa in modo diverso e dunque in modo bizzarro, se volete. Tra l'altro Repubblica intervista proprio il sindaco di Aosta, Giordano, Bruno Giordano si chiama, pagina 10 e 11 di Repubblica, è colui che ha tenuto la tassa l'1 per 1.000, aliquota minima. Volevamo incidere il meno possibile sulle tasche dei cittadini, dice a Repubblica, intervistato da Diego Longhin, il sindaco di Aosta. Per questo abbiamo applicato l'aliquota minima, coinvolgendo anche gli inquilini. Una scelta che ci siamo potuti permettere grazie a un bilancio sano, anche se per il patto di stupidità, così lo chiama, non possiamo fare investimenti. Insomma, la TASI ad Aosta costa 163 euro in meno rispetto alla vecchia IMU. Certo che però bisogna capire comune per comune, libero titola, pagheremo più della vecchia IMU. Se siete da Aosta, ovviamente questa cosa è falsa, in altri comuni magari sarà anche vera. Comunque continua il sindaco di Aosta, dal 2010 siamo riusciti a ridurre le spese di circa 5 milioni su un bilancio di 63. Certo, avendo tenuto al minimo l'aliquota, i cittadini si accontenteranno. Quindi ad Aosta più felici di pagare una TASI ben più bassa dell'IMU. A proposito di spending review, c'è una notizia che viene pubblicata solo da Repubblica in prima pagina, ed è una notizia curiosa, anche particolare, anche simbolica, così almeno la pone Repubblica con Alberto Custodero a pagina 16. Il capo della polizia Alessandro Pansa ha deciso di abbandonare scorta e auto blu. Gira con una Lancia Delta che ha sostituito la macchina di servizio. Addio a scorta e auto blindata, la svolta del capo della polizia. Il capo della polizia Alessandro Pansa rinuncia alla scorta e all'auto blu, una BMW blindata che sfiora i 100.000 euro. Da quindicina di giorni viaggia per Roma su una Delta usata con autista e assistente. Notizia che non è stata annunciata pubblicamente, ma il nuovo stile del numero uno delle forze dell'ordine italiane non è passato inosservato al Viminale. Da quando ha rinunciato infatti alla BMW modello Casta e all'auto di scorta, tutti i dirigenti della sicurezza del Viminale hanno capito il messaggio e molti hanno seguito il suo esempio. Dal palazzo sono un bel pezzo sparite le costose auto blu presidenziali, contestualmente sono comparse Renault, Seat e punto. Dunque scrive Repubblica, una scelta per risparmiare, per dare un segnale del capo della polizia che rinuncia a scorta e auto blindata. A proposito di auto blu, Il Fatto Quotidiano pone l'accento su una vicenda parallela alla vendita delle auto blu su eBay, tanto cara a Renzi col motto "Venghino, signori, venghino". Ebbene, visto che abbiamo venduto un po' di auto blu, Carlo Tecce racconta sul Fatto Quotidiano a pagina 5 che 104 poliziotti che erano adibiti proprio a fare gli autisti o comunque a essere a bordo delle auto blu ora vanno in guardiola. Gli agenti alla guida dei mezzi venduti su eBay sono passati al servizio dei palazzi istituzionali, devono controllare badge e carte d'identità. Venghino, signori, venghino! E così 104 poliziotti ben addestrati e molto esperti, distaccati a Palazzo Chigi, non hanno alcune colpe, non solo fallulloni, ma si ritrovano ora a stare fermi, a far lievitare un numero già spaventoso di agenti che assistono le istituzioni in borghese, sono circa 500, perché se Renzi cammina un po' li può vedere nei gabbiotti disposti a un paio di isolati di distanza da Palazzo Chigi verso Piazza San Silvestro a beccare lì un gruppo ancora più nutrito a braccia conserte all'ingresso, a smistare tesserine, sorvegliare il passaggio di dipendenti, visitatori, diplomatici. Insomma, il problema del personale che è sceso dalle auto blu e che ora si ritrova anche in una situazione non altrettanto qualificata, questo almeno scrive il Fatto Quotidiano. Va bene, siete pronti dopo la pubblicità a ributtarci nella campagna elettorale che ieri ha visto tre momenti, insomma Beppe Grillo da Porta a Porta, dal 1983 che non si rivedevano in Rai e comunque si davano del tuo allora e si danno del tuo anche oggi. E così Beppe Grillo Porta a Porta, appunto Renzi era Piazza Pulita, Berlusconi la Quinta Colonna, oggi Renzi va da Barbara D'Urso e la campagna elettorale, bellezza, ripartiamo da qui. Ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, grazie cara ascoltatrice che sei stata la prima, una delle prime a lanciare questa nuova moda della pazzia delle siglette per noi. E allora, come detto, ieri l'evento mediatico, certamente la campagna elettorale più atteso, era Porta a Porta con Beppe Grillo che si è accomodato nel salotto di Bruno Vespa tra battute, risate, domande, risposte, una intervista faccia a faccia, tanto che Beppe Grillo ha detto non è un talk show, i tanti odiati talk show, ma un, come dire, un one to one, no? Ha preteso infatti che non ci fossero altri giornalisti, che non ci fossero altri candidati, era un'intervista uno a uno. E allora Grillo nel salotto di Vespa, noi la rabbia buona, ma vuole i processi online, titola per esempio così il Corriere della Sera, che con Alessandro Trocino fa un resoconto della giornata, una giornata iniziata con una frase molto pesante, evocando addirittura la mafia. Avvertendo Renzi, lui lo chiama Renzie come Fonzi, no? Con la E finale, che lo attende la lupara bianca, ovvero la sparizione politica. Termina invece questa giornata in una sede per lui inconsueta, lo studio di Porta a Porta, viene accolto da Bruno Vespa, da Giancarlo Leone, direttore di Rai 1, cerca anche di portare il plastico del castello di Lerici per l'occasione con alcuni politici ma anche giornalisti, lo stesso Bruno Vespa messo nelle zone del carcere. Ma non lo fanno entrare, c'è la par condicio. Allora lui si lancia in una battuta dicendo: ma come, non fate entrare me con un pezzo di plastica e fate entrare Silvio Berlusconi qui in Rai? E vabbè, insomma, tra battute, butad, poi c'è la questione politica. Non mi dice voglio processi online per politici, per imprenditori, le gogne che dureranno un anno per i cronisti perché abbiamo bisogno di uno sputo digitale. E poi sugli europei, non solo vinceremo ma sarà una marcia trionfale. Grillo chiede ancora nuovamente le dimissioni del presidente Napolitano, la chiusura dell'Expo che definisce una rapina, definisce gli 80 euro di Renzi una depravazione da voto di scambio, e poi mostra questo assegno, l'assegno di 5 milioni che i parlamentari a 5 Stelle restituiranno grazie al dimezzamento del loro stipendio. Si fa anche il selfie con Bruno Vespa. Beh, d'altra parte invece Matteo Renzi era in prima serata a Piazza Pulita e in un retroscena di Goffredo De Marchis a pagina 3 di Repubblica dice: Beppe ha paura di noi, io vado in piazza per sfidarlo perché si vedrà che è solo un bluff. E c'è da dire che, visti anche i racconti dei giornali, pare davvero che i duellanti veri, i duellanti principali siano proprio loro, Grillo e Renzi. La parola chiave è paura, scrive Repubblica. Non ne ho, ma devo dimostrarlo anche agli elettori, spiega Matteo Renzi. La sfida delle piazze con Grillo serve a questo. Per questo ha chiesto al suo staff di aggiungere appuntamenti. In questi ultimi giorni schizzerà da una parte all'altra dell'Italia fino a venerdì, quando è fissato il comizio di chiusura a Piazza della Signoria. Oggi sarà a Milano, passerà da Bergamo e finirà la giornata a Bari. Nei prossimi giorni non è esclusa una nuova tappa a Palermo. Mettiamo altre date, è il suo ordine agli organizzatori del PD. Deve essere evidente che la paura è dei grillini, perché insultano per coprire i loro timori e il loro vuoto. Così Matteo Renzi, che aggiunge: io non cito Hitler in questa campagna elettorale, anche un po' folle di dichiarazioni, dobbiamo abituarci a un linguaggio più serio. Sta di fatto che intanto piomba su questa vicenda anche il richiamo dell'Authority per le comunicazioni, che ha emesso un ordine per La7, Rai News, Sky TG24 e TG3, dunque quattro reti televisive, per un eccessivo spazio concesso al premier Matteo Renzi a ridosso delle elezioni europee. E quindi il consiglio della GCOM, che si è spaccato sulla decisione, fa sapere sempre Repubblica in questo articolo, comunque ha deciso così. Dicevamo, è più un rapporto e un duello tra Berlusconi e Renzi, e tra Grillo e Renzi, tanto che i grillini ancora dicono: se vinciamo poi il Napolitano si deve fare da parte, ci vogliono nuove elezioni, ci vuole un nuovo governo. Tra l'altro Libero su questo con Enrico Paoli ha un resoconto di quella che sarebbe la squadra di governo, cioè ci si porta avanti. Luigi Di Maio, che sarà il nostro ospite, il vicepresidente della Camera, viene dato come più accreditato candidato premier in un'eventuale compagine di governo del Movimento 5 Stelle, e secondo Libero Travaglio ministro. Ecco, il sogno dei grillini sarebbe questo: Marco Travaglio ministro alla giustizia. Sta di fatto che viene messo un po' in secondo piano, anche se ieri era in prima serata anche lui a quinta colonna, Silvio Berlusconi. Per questo Repubblica racconta che Silvio Berlusconi ha in tasca una mossa dopo le elezioni, è il piano B del Cavaliere: se si scende sotto il 20% subito il potere a Marina. Così racconta Francesco Bei, è pronto già il predellino bis, stavolta per Marina, una sorta di colpo di scena che Berlusconi sta immaginando in questi giorni di fronte ai sondaggi che lo segnalano in stallo. Se andiamo sotto il 20%, confida ai suoi, potrei lasciare subito e lanciare la candidatura di mia figlia. Sarebbe già pronta, secondo Repubblica, una vera e propria conferenza stampa con padre e figlia fianco a fianco per annunciare il cambio al vertice di Forza Italia. Come Renzi per il PD, anche Marina sarebbe l'ultima carta per ridare slancio a un partito che appare sempre più smarrito. Dunque Berlusconi più in difficoltà. Comunque questi sono gli scampoli di campagna elettorale. Noi ne parleremo alle 8:15 con Cécile Kyenge e Luigi Di Maio per PD e Movimento 5 Stelle. Tra l'altro avremo ospite, ricordo, anche alle 8:45 Amedeo Matacena da Dubai, colui che è condannato per l'associazione esterna alla mafia e si trova latitante, anche se lui dice di no. Ci sono dettagli e novità su questo, sull'inchiesta che riguardano proprio Claudio Scajola, finito agli arresti con l'accusa di averlo aiutato nella latitanza. Ma a proposito di latitanti, fatemi salutare prima Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Buongiorno Mauro, eccoci. Buongiorno. Non sono latitante, perché non sapevo neanche di essere ricercato. Vabbè. Sostanzialmente. Quindi... Senti. Non faccio lo spiritoso su queste cose. Prendi il calendario, eccolo, cerca qua. 16 giugno, sì. Cosa devi fare il 16 giugno? Devo pagare la TASI. Forse devi pagare la TASI. Devi pagare la TASI se... Ma tu eri distratto però, perché in apertura di rassegna stampa appunto ho letto queste parti qui. Guarda che facciamo delle brutte figure, Alessandro, ecco. Se non studi facciamo delle brutte figure. Prendi il Sole 24 Ore, devi andare a guardare sul sito delle finanze per vedere se il comune ha pubblicato l'aliquota. Come fai ad andarci? Leggi Gianni Trovati a pagina 3 del Sole 24 Ore. Certo. Perché sembra facile trovare il portale dove stanno tutte le indicazioni dei comuni che hanno deciso, ma invece non è così facile. È tutto oscuro, tutto strano, tutto mascherato. È il fisco oscuro, il fisco di Harry oscuro. Potter, questo qua probabilmente, non lo so. Comunque è abbastanza complicato, come hai già appunto annunciato agli ascoltatori, ma tu non hai studiato abbastanza. Vabbè, vediamo se domani poi... Domani ti chiedo il 16 di settembre, preparati, facciamo... Ottimo. Una cosa fatta bene. Hai visto il tutto lavoro ieri, grande successo, molta gente è venuta ad ascoltare lì nella sede del Sole il ministro Poletti, e oggi ne riferiamo anche di tutti i dettagli tecnici, perché è finalmente diventato legge definitiva, perché è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto cosiddetto Poletti, quello sul appunto contratti a termine e altre cose che riferiamo oggi nelle pagine del Sole 24 Ore, quelle naturalmente di norme e tributi. Col condominio come sei messo? Vabbè, abbiamo la pagina di condominio anche oggi, come ogni martedì peraltro, quindi puoi aggiornarti. Oggi parliamo del ricorso alla mediazione in caso di lite. Guarda che è una cosa importante, non prenderla sotto gamba. No. E domani ricordatelo, a parte che ti chiedo questa cosa del 16 settembre, però domani diamo con il Sole 24 Ore il secondo degli inserti dedicati al modello unico, che almeno quello per adesso non gli hanno spostato date, ma vedremo, perché non si ogni può giorno mai... ha la sua pena. Se ogni giorno la sua tassa, verrebbe da dire, caro Alessandro. Ti ricordo che poi entro fine maggio scade la sanatoria dei ruoli, cartelle equitali, è presente quella cosa lì? Sì. Ecco, ne parliamo oggi, lo ricordiamo oggi con un po' di indicazioni anche pratiche appunto sul Sole 24 Ore. C'era qualcos'altro che volevi chiedermi o volevi esporre qualcosa di gruppo? Non volevo esporre nulla. Non volevi esporre. Già allora, trovato delle telefonate. Hai delle telefonate importanti, sì. Allora io a questo punto, guarda, dove ubi maior verrebbe da dire, insomma, mi ritiro nella mia latitanza in buon ordine, da cui riemergerò domani alla stessa ora, stesso canale. Va bene, ma lanci prima? Ma posso da latitante? Sì, puoi farlo. Ah, posso farlo? Allora lo faccio, sì sì. Traffico! Alessandro Milan, il pipistrello dell'informazione! Pipistrello, vabbè, vabbè. Allora, dicevamo, visto che avremo alle 8.45 Amedeo Mattacena ospite e ci sono novità sulla vicenda Scajola, oggi il Corriere della Sera racconta con Fiorenza Sarzanini quei dossier affidati da Scajola a un agente dei servizi segreti. È l'ultima novità. Quando viene perquisita nell'estate scorsa la casa di Luciano Zocchi, capo segreteria di Scajola, vengono scoperti in casa di questo uomo, che è un ex prete sospettato di aver partecipato al raggiro che l'ordine religioso dei Salesiani avrebbe subito nella spartizione del patrimonio lasciato dal marchese Gerini, viene trovato a casa sua tanti documenti come cartelline contenenti appunti manoscritti riguardanti la morte di Marco Biagi, un faldone blu contenente documentazione relativa a Marco Biagi, Michele Scandroglio, Claudio Scajola e Carteggio Forza Italia. Insomma, documenti riservati affidati da Scajola appunto a un agente dei servizi segreti. Legata alla vicenda di Scajola c'era stata nei giorni scorsi anche la vicenda dell'Expo, legata come con coincidenza di inchieste. Continuano gli interrogatori con l'ex direttore generale dell'Expo Paris, che arrestato ai PM dice: ho pilotato appalti. Questo è il titolo del Sole 24 Ore, a pagina oggi, con Angelo Mincuzzi, racconta: sì, ho pilotato gare per gli appalti dell'Expo. E quindi continuano a parlare. C'è anche un'intervista molto interessante che Grazia Longo fa sulla Stampa al capo dell'ufficio tutela uscite mercati del Comando Generale della Finanza, Giovanni Avitabile, che dice, è il finanziere anticorruzione, diciamo così: irregolari 7 appalti su 10 in Italia. Dai controlli fatti è lievitata la mole degli affari, contemporaneamente l'attività illecita. Tanto per capirci, a fronte di appalti per 6,8 miliardi di euro, 82,7% in più rispetto a un anno fa è lievitato la percentuale dell'irregolarità, circa il 70%. 7 appalti su 10 sono irregolari, dice il finanziere anticorruzione intervistato dalla Stampa. A proposito di situazioni difficili, io vi ricordo anche ciò che è l'articolo a pagina 2, una fotografia impietosa del Corriere della Sera. Da Sergio Rizzo, i 42 primati negativi dell'Italia in Europa. Sergio Rizzo prende spunto da alcuni numeri, per esempio: ne volete due che ci inchiodano rispetto alla Germania? Nel periodo in cui in Italia si sono persi 941.500 posti di lavoro, nello stesso periodo, quindi persi questi posti di lavoro, in Germania ne hanno invece generati 1.684.200. Loro li hanno guadagnati, noi li abbiamo persi invece 941.000, una differenza davvero impietosa di quasi 2.500.000 posti di lavoro come saldo. E poi alcuni dati, sempre Sergio Rizzo: da noi una disputa commerciale davanti al giudice civile si risolve mediamente in 1.185 giorni, nell'eurozona 547 giorni, in Germania 394. E poi ancora, per registrare una proprietà 16 giorni contro 31, questo è vero, ma restiamo al palo quando si tratta di ottenere una licenza edilizia, 233 giorni in Italia, in Germania 167. Pagare le tasse 269 ore in Italia, 187 in Germania. Ecco tutti i numeri che fotografano impietosamente la differenza tra i due paesi. A pagina 2 del Corriere della Sera il titolo è: 42 primati negativi dell'Italia in Europa, con l'articolo di Sergio Rizzo. C'è tutta una serie di articoli invece di cosa sta succedendo ai taxi di Milano. Abbiamo sentito che le categorie dei tassisti si dissociano anche da quello che è successo, qualche scontro, perché sempre l'applicazione Uber è sotto critica da parte di categorie di tassisti. Dicono: fanno questi di Uber delle concorrenze sleali. Parla il volto italiano di Uber, la manager, il general manager Benedetta Arese Lucini, intervistata da Repubblica da Fabio Tonacci, dice: l'altro giorno al convegno di Wired non mi hanno fatto parlare, appena ho aperto bocca mi hanno lanciato uova. e poi su di me ci sono delle frasi irripetibili, sono azioni di poche persone, è vero, non c'è dietro tutta la comunità dei tassisti, ma mi insultano sui social network, epiteti sgradevoli per una donna, postano offese sulla nostra pagina Facebook. Non siamo noi il problema, dice la manager di Uber, è il mercato che è cambiato. Ormai ci sono tante app per car sharing, carpooling, chiamare i taxi, chiamare il noleggio con conducente. A Londra abbiamo contato 20 servizi del genere, a Chicago la presenza di Uber ha spinto 25.000 viaggiatori a non utilizzare più l'auto. Insomma, come dire, questo è il futuro, e invece i tassisti ci accusano. Ma comunque tutti i giornali dedicano almeno una pagina a questa disfida tassisti Uber, tassisti che sono tra l'altro in sciopero. Ma siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Io non ne posso più, lo dico, degli articoli sul culo di Veronica Lario, non ne posso più, del dibattito, la disputa se sia giusto pubblicare o no il fondo schiena di Veronica Lario. Oggi vince Selvaggia Lucarelli in prima pagina di Libero. Cara Veronica, mi dispiace, su quelle foto a torto marcio. E allora di qui l'articolo a torto marcio, una pagina di Libero sulla disputa del fondo schiena di Veronica Lario, da pubblicare o no, ma chi se ne frega, chi se ne frega, chi se ne frega. 24 mattino. Siamo qui alle 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, è innegabile, mi sembra di poter dire, in questi ultimi scampoli di campagna elettorale, stavo dicendo battaglia elettorale perché un po' di battaglia si tratta, che i duellanti veri, cioè i protagonisti che non se le mandano a dire, sono soprattutto Renzi e Grillo, anche se ieri sono tutti apparsi i maggiori leader in TV. Addirittura Beppe Grillo si è accomodato dopo 20 anni negli studi di Porta a Porta dal 1983. Tra battute, frasi, un selfie anche con Bruno Vespa, però si è parlato di contenuti politici, a cominciare dalla richiesta che Beppe Grillo ha rinnovato, cioè se vinciamo noi si torna in Italia, si va dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, si chiede che ci sia un altro Presidente, ci siano nuove elezioni perché cambierebbero le dinamiche politiche, tanto che ha usato anche questa frase forte nella mattina in un comizio a Verona, a dire il premio e Renzi rischia di sparire con la lupara bianca Grillo. Chi si ricorda più di Letta? Te lo ricordi più? Non se ne parla più. Dopo 2 giorni sparito come una lupara bianca. Sparito. E Lebetino farà quella fine lì tra un po'. Sarà dimenticato completamente. Sarà dimenticato lupara bianca, al che Matteo Renzi ha risposto così. Come ha detto oggi un noto statista ligure, parlare di lupara bianca, fatemelo dire con franchezza e con chiarezza, ma come si fa a utilizzare linguaggi come quello di Hitler, come si fa a chiamare in ballo i lager, come si fa a parlare di lupara bianca? Come si fa a non considerare? Insomma, la risposta molto molto dura di Renzi. Io voglio salutare Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Così come saluto Cécile Kyenge, ex ministra di integrazione e candidata alle europee nel PD per la circoscrizione Nord-Est. Benvenuta e ben ritrovata, Kyenge, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, sono i toni della campagna elettorale, però Di Maio, le chiedo, che senso ha la vigilia delle europee di dire se vinciamo, comunque se cambiano gli equilibri, bisogna cambiare il governo anche in Italia o dare nuove elezioni? Che c'entrano le due cose? Ma è sicuramente un segnale. Dopo 80 giorni di governo Renzi e di ulteriore immobilismo di questo paese, le elezioni europee si trasformano anche in un termometro della situazione politica interna, è innegabile. E quello che noi vogliamo ribadire è che vogliamo sostituire all'immobilismo una nuova consultazione elettorale per far decidere ai cittadini se questa classe politica che ci ha governato con governi tecnici negli ultimi 3 anni e governi prima negli ultimi 20 vent'anni e non hanno fatto niente per questo paese, se questa classe politica deve andare a casa o no. Sì. Noi vogliamo una risposta dai cittadini ed è chiaro che le elezioni europee, oltre a essere un termometro sui temi europei, sono un termometro per la politica nazionale interna. Però mi faccia capire dove mettete questo limite, cioè nel senso vincere cosa vuol dire? Arrivare proprio prendere un voto in più oppure prendere qualche voto in meno? Me lo quantifichi? Cioè, io non mi lancio in queste quantificazioni perché ormai sono giorni che si parla solo di sondaggi e di numeri. La nostra intenzione è quella lì di vedere qual è la risposta degli italiani in queste elezioni europee. Se in queste elezioni europee ci sarà una legittimazione ancora più forte del nostro movimento, dei nostri temi, non potranno più ignorare i temi che stiamo portando avanti. Se noi diciamo che in questo momento la priorità deve essere l'abbattimento di carrozzoni come Equitalia, l'aiuto ai disoccupati con il reddito di cittadinanza e evitare sprechi come gli F-35, quindi le spese militari, e se noi veniamo legittimati in questo momento ulteriormente dal voto popolare, è chiaro che questi temi devono diventare arrivare al centro dell'agenda però politica del paese, a differenza sì, di PD e Forza Italia, però che possono diventarlo possono diventarlo in un dibattito parlamentare. Invece lei dice in un dibattito parlamentare non abbiamo i numeri, ma in un dibattito parlamentare ci stiamo provando ormai. Noi il 27 portiamo in aula il 27 maggio la legge sull'abolizione di Equitalia, ma si sono già espressi questi partiti sugli F-35, si sono già espressi quest'anno, noi li abbiamo messi alla prova su tutto e hanno sempre votato contro questi signori, e alla fine noi non possiamo far altro che allearci con i cittadini per cercare di rinforzare temi che portiamo avanti ormai da anni e che sono arrivati anche in Parlamento. Hanno tradito il loro mandato elettorale sia PD e Forza Italia, perché di fronte alla prova dei fatti loro premono sempre il pulsante rosso. Il pulsante rosso. Vabbè, intanto io rettifico, non so neanche fare i calcoli, effettivamente era dall'83 che Beppe Grillo non andava e quindi erano 31 anni, come mi fa notare il mio collega Simone Spezia e così come tanti altri ascoltatori. Io vorrei chiedere, onorevole Chienghe, voi non avete timore di questo? Intanto le chiedo un giudizio, insomma, quando Renzi parla di Lupara Bianca, in fondo si riferiva a Letta, a quel governo di cui faceva parte anche lei. Effettivamente un pochino è così, cioè dice che dove è finito Letta e ora toccherà a Matteo Renzi. Non avete paura di questa furia demolitrice del Movimento 5 Stelle? In questo credo che tutto non bisogna confondere i due piani, quello europeo e anche quella della politica nazionale, perché ho visto che il collega Di Maio ha messo un po' tutte e due sullo stesso piano e noi stiamo dicendo che questo non è un referendum per giudicare lo stato della politica, perché noi come Partito Democratico ma anche come governo ci stiamo già impegnando nel cambiamento e stiamo facendo già molti passaggi, a differenza comunque da quello che ho sentito. Io non ho mai sentito nessuna legge del Movimento 5 Stelle, ma in questo momento noi come governo abbiamo la prima cosa che è già in atto, quella degli 80 euro che un aiuto anche alle famiglie per far ripartire anche i consumi, per far ripartire anche proprio la situazione un po' delicata in cui si trovano molte famiglie. Poi il decreto lavoro, che permette anche ai giovani, si sa che la disoccupazione giovanile ha toccato quasi il 42-43%, quindi bisogna cercare anche di avere dei contratti a tempo determinato che possano permettere anche ai giovani di entrare nel mondo del lavoro. Quindi sono tanti i punti che noi abbiamo messo in atto, proprio perché dobbiamo cercare delle riforme, arrivare in Europa dove sappiamo che effettivamente ci sono delle cose che non sono andate bene, la politica economica così come è stata fatta, quella di rigore, quella dei tagli, non va bene, ma ricordo anche che l'Europa fino adesso ha avuto la maggioranza di centrodestra, cioè sì, noi eravamo in minoranza. Quindi noi abbiamo messo in atto delle riforme che partono dalla legge elettorale al titolo quinto, al Senato, cioè al superamento del bicameralismo paritario. Abbiamo messo tutti in fila, ma per rafforzare le nostre istituzioni, essere pronti a essere propositivi. Cioè in questo momento noi incarniamo la speranza, perché siamo anche propositivi partendo da quello che è negativo, cioè quello che è stato fatto in cioè lei dice, conosciamo gli errori, lei porta, cambiamento. No, lei porta avanti questa idea che all'interno del Partito Democratico si è sentita più volte anche da Matteo Renzi, cioè noi siamo i propositivi mentre dall'altra parte vedete solo distruzione? Ma in questo momento, così come stiamo vedendo le cose, non si può agire fomentando la paura oppure spaventando l'avversario, ma bisogna essere anche propositivi, cioè bisogna avere dei dati in mano di quello che si è fatto, ma anche di quello che si prospetta di fare, non semplicemente l'uscita dall'euro o l'uscita dall'Europa, ci vuole il dialogo. Cioè io un punto in cui secondo me bisogna lavorare è che dobbiamo ritrovare anche la bellezza di poter dialogare, di avere un linguaggio sereno, di avere un linguaggio pulito, ma perché ci guardano tutti, dai bambini fino ai nostri, cioè noi non siamo dentro una cella scura, cioè siamo visti da tutto il mondo, per cui bisogna anche misurare, cioè le parole che diciamo hanno un peso e sono anche sì, educativi, cioè in questo momento fare politica vuol dire anche questa, la responsabilità del ruolo che rivestiamo. Ma diciamo che sì, devo dire che in questa campagna elettorale, e su questo Luigi Di Maio, vorrei capire due cose. La prima è perché anche ieri mi sembra Beppe Grillo, e voi lo continuate a dire, è gli 80 euro a cui si riferisce l'onorevole Chienghe, vengono da voi, come dire, non solo smitizzati, proprio contrastati nettamente. E poi una domanda anche sui toni di questa campagna elettorale. Sono sempre accesi i toni, ma insomma, allora, effettivamente Hitler e cose del genere. Allora, prima di tutto Hitler non l'abbiamo messo in mezzo noi, ma sapete bene che è stato Berlusconi che ha messo in mezzo questo paragone con Hitler, perché come ha dovuto terrorizzare sulla sinistra, adesso terrorizza sul Movimento 5 Stelle, solo che poi con la sinistra c'è stato alleato per 20 anni Berlusconi, e l'hanno dimostrato i fatti. Una cosa che volevo dire alla collega Chienghe è che prima di tutto lei dice che l'Europa ha avuto una maggioranza di centrodestra, sì, ma il centrosinistra ha votato per il 90% delle volte uguale al centrodestra, quindi hanno condiviso tutte le scelte vergognose che questa Europa ha creato. È inutile che ci vengano a raccontare la favoletta del bipolarismo europeo, che più che in Italia non è mai esistito. Quanto al fatto che dice che non ha mai sentito parlare di leggi del Movimento 5 Stelle, allora le consiglio di leggere la prima pagina del Sole 24 Ore di qualche mese fa, che ci dedicava la prima pagina perché avevamo fatto approvare la legge che blocca le cartelle esattoriali di Equitalia agli imprenditori che devono avere crediti della pubblica amministrazione. Ringrazio il Sole 24 Ore perché è stata una grande legittimazione. Ricordo ancora il titolo, si chiamava l'uovo di Colombo, sì. Servivano gli alieni del Movimento 5 Stelle per ottenere un risultato così scontato, e questo dimostra come, nonostante noi proviamo a dialogare con queste persone, poi alla fine, dopo 20 anni, le cose normali le abbiamo dovute fare noi. Quante vite di imprenditori avremmo salvato se Monti, Berlusconi o Letta avessero bloccato a suo tempo le cartelle esattoriali di Equitalia agli imprenditori che dovevano avere crediti? Quanto ai toni, io le dico semplicemente una cosa: io giro per le piazze, incontro gente che ha toni molto più accesi di quelli di Beppe Grillo, possono piacere o non possono piacere, ma il vero grande problema di questo paese è che per anni abbiamo assistito a parrucconi che dai talk show ci volevano dire che tutto andava bene, che i ristoranti erano pieni e che il paese andava alla grande. E anche sulla storia degli 80 euro, io non posso sentirmi dire che sono un modo per aiutare le persone. Perché contestate questa cosa, cioè dire uno spot perché elettorale? Perché lo dimostrano tutti gli indici alla fine. Il problema di questo paese è che se tu hai 6 miliardi di euro, ammesso che Renzi li abbia, perché tutti gli studi dicono che quelle coperture non si riescono a trovare, e io ho parlato con i funzionari del Senato e mi hanno fatto vedere quali sono i loro studi, ammesso anche che Renzi abbia 6 miliardi di euro, tu puoi decidere se donarli a chi ha già una busta paga, sì, o investirli per riuscire a creare produttività nel paese, per esempio in energia. Lo studio dell'Enea, quindi non del Movimento 5 Stelle, dice che se 10 miliardi di euro fossero stati investiti in energia, oggi avremo qualcosa come 10.000. Vabbè, ma lì quando uno, 10.000, no, certo, quando uno in capitale fa una scelta, che questa è eminentemente politica, cioè se è scelto, secondo voi, dite, per uno spot elettorale di dare, come dire, un po' di contentino in busta paga, perché questo paga, cioè questa è la critica che si fa, onorevole Chienghe, cioè dire questi 80 euro, comunque questo capitale poteva essere magari investito in altro modo, invece appare agli occhi del Movimento 5 Stelle come dire tenete 80 euro che sono importanti per chi guadagna 1000 euro, non possiamo sminuirli, però come dire sono un po' uno spot elettorale perché arrivano guarda caso proprio adesso a maggio, onorevole. Ma in realtà non è uno spot elettorale, io credo che questo fatto dà un po' fastidio perché è stato fatto da questo governo. Ricordo che 80 euro per chi arriva in busta paga e sa cosa significa avere 80 euro al mese in più che un aiuto, sicuramente non è su questa posizione, perché questo è semplicemente un aiuto, un primo passo che noi diamo come segnale, cioè che è fuori dalla campagna elettorale, perché noi in questo momento guardiamo anche quelle che sono le condizioni delle famiglie e bisogna secondo me anche dare un'attenzione particolare alle famiglie, e su questo l'attenzione inizia da qui, da questo primo passo. Cosa risponde cosa risponde a chi quando Di Maio dice siete conniventi destra e sinistra, cioè la vede così, il sistema è questo che per 20 anni è rimasto e noi invece il Movimento 5 Stelle siamo il nuovo che avanza? No, io non la vedo così, anche perché abbiamo due pensieri diversi, cioè destra e sinistra non sono proprio la stessa cosa. Cioè noi abbiamo una delle nostre idee ben determinate. In questo momento noi abbiamo visto la situazione delicata in cui si trova il paese e che sicuramente non possiamo fare la guerra e mettere a discapito tutto quello che è anche la vita delle persone, ma in questo momento dobbiamo dare una risposta immediata, importante, serve il dialogo. Il Partito Democratico ha fatto questo passo e credo che su questo bisogna tenerle presente, cosa che non ha fatto il Movimento 5 Stelle, perché nei momenti di difficoltà noi avevamo bisogno di poter collaborare, di poter parlare, per riuscire a dare delle risposte immediate, perché la situazione non è una situazione di normalità, una situazione di emergenza in cui si trova il paese di grave crisi economica. Su questo devo dire che il dialogo chiesto dal PD da questo punto di vista mi sembra di poter dire non ci senta, nel senso Beppe Grillo a dire no, non si dialoga con i partiti che ci hanno portato in questa situazione. Questa è la visione del Movimento 5 Stelle. Dopo la pubblicità riprendiamo con Luigi Di Maio, Cécile Kyenge, state con noi. 24 mattino. Allora, alle 8:39 minuti la battaglia finale o il confronto finale Grillo-Renzi, questo sembra in campagna elettorale. Siamo qui con Cécile Kyenge, ex ministro dell'integrazione del PD, candidata a circoscrizione nord-est, e Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, al quale chiedo, Di Maio, due cose, poi se vuole rispondere alla questione del confronto a cui dice Cécile Kyenge voi sfuggite, ma questa domanda so che tanto lei non mi risponderà, ma tutti la danno in predicato come possibile uomo più vicino alle istituzioni più alte, diciamo, come possibile anche candidato premier in caso ci possa essere un ribaltone o comunque un governo Movimento 5 Stelle. Come lo scegliereste nel caso il premier? Con le primarie oppure? Come abbiamo scelto i candidati alle europee, come abbiamo scelto i candidati alle elezioni politiche, quindi come i cittadini hanno scelto me per entrare in Parlamento, così creeremo un governo, una proposta di governo la sottoporremo ai cittadini. È chiaro che non ci sarà nessun ribaltone per un governo a 5 Stelle, o si passa per le elezioni o noi non ci stiamo. E perché volete un altro presidente? Cioè perché vorreste un altro presidente della Repubblica? È perché altrimenti finisce come l'ultima volta, che ci proponevano il governo napolitano e noi dovevamo solo o uscire dal Senato o dargli il voto. Non ci hanno mai proposto neanche un sottosegretario, e questo è stato evidente quando ci fu la vicenda di Bersani. E devo dire anche un'altra cosa, che quando la collega diceva che destra e sinistra sono diverse, però bisogna fare il bene del paese, le larghe intese passeranno alla storia di questo paese per aver votato il più grande condono fiscale alle società di slot machine, i 7 miliardi e mezzo di euro alle banche come Unicredit e Banca Intesa. Per questo passeranno alla storia. Devo dire che è un risultato abbastanza deludente se si pensa che questi dovrebbero essere i temi per il bene dei cittadini. Quanto al confronto, rispondo telegraficamente: ogni volta che noi proponiamo una proposta in aula, e chiediamo al PD di votarla, ci stiamo confrontando, non è un problema nostro se il PD puntualmente vota contro l'abolizione di Equitalia, contro l'abolizione dell'IRAP alle piccole e medie imprese, contro il reddito di cittadinanza al Senato, contro l'abbassamento degli stipendi. Io sono il relatore della proposta che chiede di abbassare gli stipendi ai parlamentari italiani dimezzandoglieli, e l'hanno arenata in ufficio di presidenza alla Camera. Ma dice non c'è possibilità di dialogo io non dico che non c'è possibilità di dialogo, cioè, io dico soltanto che ogni volta che glielo chiediamo ce lo respingono. L'unico modo per riuscire a farci passare le cose è che li dobbiamo tenere con l'ostruzionismo 2-3 notti in aula finché non cedono e vogliono andare a casa. Di cosa stiamo parlando? Noi li abbiamo conosciuti quest'anno e in Parlamento europeo sappiamo che è ancora peggio, però questa volta in Parlamento europeo arriveranno tantissimi movimenti dagli altri paesi europei, ed è con quei movimenti che faremo fronte comune. Non ci sarà solo il Movimento 5 Stelle, arriveranno tante sorprese dagli altri paesi europei per fronteggiare il PD e il PDL europei, che sono il PPE e il PSE. Io vorrei capire dall'onorevole Kyenge che ne pensa anche di questi toni di campagna elettorale. Lei che dei toni ha sempre parlato, spesso si dice neanche subito delle espressioni le più negative e di attacchi anche verbali, che ne pensa di questa campagna elettorale? Ha visto parlare poco o tanto di Europa, di contenuti? Che dice? Ma su questo tema io lo ripeterò, è anche un mio punto di forza, quella della comunicazione, della qualità anche della comunicazione. Si è parlato poco di Europa, si è parlato poco di che cos'è la cultura europeista, ma piuttosto si sono sentite parole gravissime come la lupara bianca, che è una che significa far sparire una persona. Cioè bisogna proprio cominciare a misurare le proprie parole, il peso delle parole ha un senso. Io questo cercherò di portarlo anche in Europa, in modo che ogni leader politico, ogni programma politico deve anche rispettare l'avversario, deve anche rispettare il pubblico, cioè la popolazione, perché che diciamo non offende soltanto il rivale, cioè l'avversario, ma offende anche tutto un paese. Per cui noi dovremmo partire proprio da qui, sanzionare chi utilizza la violenza verbale come offesa, come lotta per riuscire a passare dei messaggi. Dobbiamo piuttosto cominciare a parlare in modo molto efficace, ma anche trasparente e rispettoso, per far passare dei concetti. Sì. Parlare politica non è offendere, fare politica vuol dire proprio cominciare a spiegare anche come possiamo tradurre le esigenze, ma anche le difficoltà della popolazione in qualcosa di più concreto. Su questo si è visto poco. Io nel concludere, Luigi Di Maio, però proprio una battuta anche a lei, ma questa vicenda della lupara bianca, cioè si liquida sempre, ma Beppe Grillo tira fuori un po' l'anima del comico che ha dentro di lui, ma va bene tutto con questa logica? Ma io chiedo scusa, ma l'atrocità con cui Renzi ha silurato Letta non è stata molto più violenta di questa espressione? Ma la lupara bianca è una ma di cosa stiamo parlando? Voi vi state fossilizzando su un termine quando per me è più devastante quello che ha votato il PD in aula in questi giorni, togliendo i soldi a vigili del fuoco e polizie per trasferirli all'Expo, e il decreto che si sta per votare in aula questa giornata qui. Io credo di non dovermi assolutamente fossilizzare su questo tema, altrimenti farei il gioco del PD che vuole distrarre dalle porcate che sta votando, accusando Beppe Grillo dei termini che utilizza. Io vorrei veramente riportare i cittadini, l'attenzione dei cittadini sui temi, su quello che si sta votando in aula, che è devastante per il paese italiano. Sì. Le larghe intese hanno prodotto soltanto disastri per questo paese. Va bene, intanto io vi ringrazio, ovviamente buona settimana, ultimi scampoli di campagna elettorale, sia Cécile Kyenge, ex ministro dell'integrazione, candidata PD alle europee, circoscrizione nord-est, e Luigi Di Maio, che è vicepresidente la Camera del Movimento 5 Stelle. Dopo il traffico, ma è già collegato con noi, io lo voglio salutare, gli chiederò solo un attimo di pazienza, è collegato Amedeo Matacena. Buongiorno Matacena. Buongiorno. È collegato da Dubai, dove si trova, negli Emirati Arabi Uniti. Amedeo Matacena ha una condanna definitiva, lui dice di no, ci spiegherà perché e come intende ricorrere alla Corte dei diritti umani di Strasburgo, una condanna per associazione esterna alla mafia, è la vicenda che riguarda anche l'ex ministro Scajola finito in carcere dopo il traffico con Amedeo Matacena. Chiacchiereremo. Eccoci qui, allora, buongiorno ancora Amedeo, buongiorno. Matacena, ex parlamentare di Forza Italia. Ecco, lei ha una condanna definitiva a 5 anni per associazione esterna alla mafia. Perché però lei non si definisce latitante? Come la dobbiamo definire? Perché nel momento in cui io sono arrivato qui a Dubai nel tentativo di chiedere un asilo politico, come già fatto in Svizzera, sono stato arrestato e sono con passaporto ritirato dopo 40 giorni di carcere e in attesa che la pratica di estradizione richiesta dall'Italia venga definita. Cioè in questo momento lei non è libero, è libero però di muoversi. Non posso uscire dall'Emirato, sono bloccato qui, di fatto sono prigioniero del paese. Quindi nel momento in cui loro decideranno se estradarmi o meno, mi prendono, mi portano in aeroporto e mi consegnano alle autorità italiane mettendomi su un volo per l'Italia, da quello che so io. A che punto scusi, l'estradizione? Cioè l'Italia ha fatto una richiesta di estradizione? L'Italia ha fatto una richiesta di estradizione, la pratica so che è in itinere, ma non so a che punto è perché non ho accesso al file. E tenga conto che per poter dialogare con la procura locale lo può fare solo ed esclusivamente un avvocato del posto. Ecco perché quando sono stato arrestato c'è stata la necessità che la mia famiglia venisse a trovarmi un avvocato del posto. Sì. Perché era indispensabile anche per una pratica di estradizione. Però mi scusi, le rifaccio la domanda, cioè quindi lei come si definirebbe? Perché lei in varie interviste ha detto io sono un perseguitato politico più che un latitante. Però visto che c'è stata una condanna, poi quando era definitiva ci sono stati rinvii in corte, però alla fine in Cassazione una sentenza c'è stata, sono venuti a cercarla e lei non c'era più a casa sua. Ma guardi, mi lasci un attimo a dire su questa vicenda. Di fatto sono stato condannato perché un collaboratore riferisce che non avrei voluto pagare una tangente richiesta dall''Ndrangheta per i lavori di realizzazione della Via Marina di Reggio Calabria negli anni 90 e che anzi l'avrei minacciato di trascinarlo in procura, cioè di denunciarlo. Secondo la procura invece non avrei pagato perché sono un amico dei mafiosi. Poi, perché avrei voluto il signor Aquila Giuseppe nominato vicepresidente della provincia di Reggio Calabria, eppure sia l'allora presidente della provincia dell'Alleanza Nazionale che tutti i consiglieri della maggioranza che componeva il consiglio provinciale dell'epoca, Forza Italia, Alleanza Nazionale, CCD, UDC, Lista Civica, sì, hanno testimoniato nel corso del mio processo che io non ho mai indicato Aquila per questo ruolo, anche perché Aquila non era nel mio stesso partito . E che lo scelsero loro all'unanimità. Però lei qui contesta la nomina del vicepresidente, sì, avviene per atto monocratico del presidente dell'ente, il quale era un amico personale di Aquila. Faccio inoltre notare che la nomina risale al dicembre del 94 e che la sua condanna per associazione è del 2004. Però mi scusi, lei ormai fuori dal vagone politico. Però lei, Matacena, mette diciamo in dubbio quello che è un processo che in Italia è arrivato al terzo grado di giudizio, cioè come possiamo riaprirlo? Lei infatti vuole ricorrere a Strasburgo, è l'unica alternativa, però fino a quel momento non ha mai pensato di dire sì, ricorro a Strasburgo, però nel frattempo torno in Italia e sconto la pena. Guardi, ho contestato con il ricorso straordinario che la Corte d'Assise di quello in Cassazione, che la Corte d'Assise di Reggio Calabria poi aveva rinviato per nuovo giudizio alla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 24 maggio 2011 che annullava la sentenza di assoluzione, che non ha dato risposte in sostanza a quanto richiesto, e cioè che venisse accertata e valutata la serietà e concretezza degli impegni asseritamente assunti da me nei confronti dell'associazione criminale Cosca Rosmini, unica residuata di fronte alle vastissime originarie accuse del 94, e ciò in ragione della circostanza che nel 2004 il predetto Aquila Giuseppe, di cui abbiamo parlato, era stato condannato per partecipazione all'associazione della famiglia Rosmini. Sì. Nel 2012 la Corte di Assise di Appello mi ha condannato sulla carta, senza preoccuparsi di stabilire un confronto con le fonti testimoniali diversamente valutate ed apprezzate dai giudici che l'avevano preceduta, cioè sulle stesse carte con cui 20 giudici mi hanno condannato, senza risentire un testimone, senza riverificare, senza permettere deposito di documenti che noi come difesa, la mia difesa voleva fare, mi ha condannato. Però, ma mi scusi, Matacena, noi come dobbiamo, cioè voglio dire, se siamo in una democrazia dobbiamo chiedere a una sentenza definitiva. Io le faccio la domanda, ma lei tornare in Italia ci pensa oppure no? Cioè, penso tutti i giorni al fatto di rientrare in Italia, ma vedete, io ho già patito un carcere ingiusto a Catanzaro, arrestato arrestato da De Magistris, che poi dopo un mese di carcere ha chiesto la mia assoluzione con sentenza in primo grado che ormai è passata in giudicata. E però io ho fatto il carcere e De Magistris ha fatto carriera politica ed è diventato sindaco di Napoli. Però... di fronte a queste cose uno dice, va bene, allora un momento, siccome io ho contestato la sentenza, anche se la legge non lo prevede, secondo me dovrebbe prevederlo, avendo contestato in Cassazione l'articolo 625, come dicevo prima, aspetta la Corte di Strasburgo che l'espletazione della pena fosse sospesa, certo, fino alla decisione. No, ma è chiaro, questa è la sua idea, però le chiedo questo, mi scusi Matacena, Claudio Scajola è in carcere con l'accusa di aver tentato di aiutarla a trasferire in Libano, intanto è vero, cioè lei mai ha pensato di andare a Beirut? No, assolutamente no. No. Ma mi faccio dire un'altra cosa. Guardi che io ho ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché con il procedimento, con la mia condanna, l'Italia ha violato l'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 13 della Convenzione Europea. Questo però, questo lo vedremo. Se... No, ma è chiaro, ma se lei ha questi diritti, diciamo, garantiti, glieli riconosceranno. Però mi perdoni perché ho solo due minuti. Sì. Il secolo XIX oggi scrive che lei, attraverso una società, la Fera SRL di Milano, era in affari con Scajola nel campo dell'eolico. Lei conferma, smentisce? Assolutamente inesatto. Io non ho mai avuto rapporti di affari con la Fera, né ho mai avuto rapporti di affari nell'eolico. E neanche con Scajola? Assolutamente. Assolutamente. Scajola è un amico di famiglia, è diventato amico di famiglia, mia moglie lo ritiene un padre perché ha perso suo padre, Claudio è coetaneo di suo padre. E quindi non ci, voglio dire, tutte queste cose onestamente mi sembrano veramente, mi lasciano allibito. Senta, ma Berlusconi ha detto di lei, Matacena non lo conosco, insomma è stato un vecchio parlamentare, lei come l'ha presa questa presa di distanza? Ma guardi, i parlamentari dal 94 di Forza Italia, Camera, Senato, Parlamento Europeo, bene o male la metà ad ogni elezione venivano sostituiti, venivano cambiati, e quindi è facile che il Presidente non si possa ricordare di qualche migliaio di tutte le migliaia di persone che hanno militato in Forza Italia e nel PDL, credendo nel progetto che Berlusconi aveva cercato di mettere in atto. È ovvio, è sotto la luce di tutti, sotto gli occhi di tutti, che moltissimi di questi uomini che hanno partecipato a questo progetto hanno pagato dei prezzi altissimi. L'ultima domanda che le faccio è questa, proprio come flash: lei ha sentito sua moglie, perché so che dal carcere in Francia, oggi arriverà in Italia, poteva fare telefonate? Purtroppo no, le hanno permesso, da quello che leggo sulla stampa, in internet, solo ed esclusivamente di poter chiamare la figlia. Purtroppo non c'è contatto e tra l'altro anche gli avvocati non sono riusciti a parlare con lei. Non sono riuscito a parlare. Intanto io per il momento la ringrazio, Amedeo Matacena, che si trova, ripeto, a Dubai. Se vorrà torneremo ad approfondire quando avremo un pochino più di spazio. Intanto nei prossimi giorni seguiremo questa vicenda e mi fermo qui con Miriam Lucchetti, Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi, anche Anita Panizza in redazione e il nostro Peter Bescapè in regia. A domani alle 6.30.